www.radio3pod.rai.it. Sì, buongiorno. Ieri ero in macchina e sono entrata in un parcheggio. Cioè, pensavo che fosse un parcheggio e... Era la metro? Sì. Succede. Per questo c'è Zuritel, l'assicurazione diretta del gruppo Zurich, che c'è quando ne hai bisogno. 848-833-888 o zuritel.it. It is later than you. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli niente, ma proprio niente è cambiato rispetto a ieri, K e Drago si sentono prigionieri di una pièce di Beckett. Ma non è che per fare Beckett basta dire Così sembra più un pezzo di Iannacci. Beckett. Beckett, ma che è mai sto Beckett? Che sarà mai sto Beckett? È uno dei più imitati scrittori del XX secolo. Insieme a Bukowski e a Carver. Come insieme a Bukowski e Carver? Anche Bukowski e Carver sono tra i più imitati scrittori del XX secolo. Beh, ci sarà un motivo, no? Per cosa? Perché sono i più imitati. Perché sono piaciuti ad altri scrittori, Drago. O perché erano facili da imitare. Vabbè, con questo? Ci vuole poco a imitare Beckett. Basta stare sotto la pergola mentre piove. Zitti, bisogna stare zitti. Anche. Due uomini che stanno zitti è Beckett. Poi ci vuole poco anche a imitare Bukowski. O a imitare Carver. Sì, ma gli originali sono gli originali. Quando Carver parla di depressione alcolica, non è come se ne parlassi tu, Drago. Diverso, è Carver. Se no sarei Carver, appunto. Lui va dritto nel fondo del cuore nero dell'uomo. Ci stai leggendo dalla quarta di copertina. Certo. Mi pare di averle già lette per qualcun altro queste parole. Per forza, le hanno usate per Poe, Melville, Conrad, Dostoevsky, Eliot, Maupassant, Pound, Flaubert, Tolstoy, Stendhal, Virginia Woolf, Joyce, Manzoni, Faulkner, Hemingway, Pavese, Steinbeck, Dickens, Pushkin, Hugo, padre, Hugo, figlio. Come Victor Hugo non c'era padre e figlio. Come no? È Dumas quelli di padre e figlio. Anche Hugo aveva un padre e un figlio. Vabbè, certo. Comunque sempre il fondo nero del cuore nero dell'uomo. Sempre quello. Cos'è, una formuletta che va bene per tutti quanti? Sì, Si tratta niente poco di meno che de... La quarta universale. Che non è una taglia di Reggiseni. Il pollo di Pollock, nel senso di Jackson, abita nascosto nel dipinto blu. Il pollo di Pollock, nel senso di Sydney, vive mascherato nei tre giorni del Condor. Il pollo con l'Apollo, nel senso di maglietta, è fratello di Licia, attore pure lui. Il pollo sull'Apollo, nel senso di Volkswagen, è appeso nell'1-8 della macchina del popolo. Siamo in ogni angolo del mondo. La fabbrica di polli. Il delfinale, io poi proprio non so nemmeno come farlo, Non so come si affigola, Cioè, io sono un pollo, Mica una gallina. Cioè, sono un pollo col becco, E con la cresta. Oddio, non proprio la cresta del gallo cedrone, Ma nemmeno la crestina delle galline da batteria, È una cresta... è abbastanza dignitosa, Piu, piu. Ecco, piu piu sì. E così almeno uno ti vede e si capisce subito che siamo Minus Abes, Minus Abes. Ecco, bravo Tarek, Minus Abes. No, dico io. Non hai ancora imparato a parlare e sei nato nel 78. Pasta asciutta. Ma che pasta asciutta? Tu fra un po' vai in pensione, ma cosa aspetti? Pasta asciutta. Beccati questa. Allora, Tarek, adesso devi prendere una decisione, Una volta per tutte. Tu devi diventare normale, hai capito? Sennò io mi vergogno di te, perché tu sei sempre attaccato a me. Io mi vergogno e poi ti picchio, capito? Perché qui conviene prima di tutto a te. Ma diventa normale, no? In the middle of nowhere. La fabbrica dei polli. Sentite questo rumore? Pronto? Pronto? Pronto? Ecco. Basta fare così, basta rispondere. Dopo un po', non bisogna rispondere subito. Perché altrimenti la gente pensa che non stai facendo niente, che non hai niente da fare. Lasci e poi, oltretutto, c'è anche, oltre a questo vantaggio, c'è anche il vantaggio che spesso e volentieri, quando rispondi un po' più tardi, l'altro si è stufato e ha messo giù. Capito? Somos gratos que cada dia nossa fábrica é carnaval. Administrador é delegado, somos gratos que cada dia nessa fábrica é carnaval. Senti, Drago, senti. Ah, che meraviglia. Le galline ovaiole finalmente lavorano con un sottofondo musicale adeguato. E questa è una conquista che hanno ottenuto grazie al sindacato e grazie alla generosità dell'amministratore delegato. Che è notoriamente un sant'uomo. Sì, sì. A parte qualche contratto proposto ai suoi dipendenti in passato. Sì, dai, peccatucci di gioventù. Vabbè, comunque la musica classica, la temperatura a 38 gradi, la settimana episcopale. Insomma, queste galline sono le vere principesse della fabbrica. Settimana episcopale è uno sbattimento. Oh, Pollo, tu l'hai appena fatta. Com'è andata? Ti vedo un po', eh? Vabbè, io ero lì che dormivo tranquillo, no? E sono voluti a prendermi. Io non me l'aspettavo. Mi hanno messo nella sala d'attesa tutto al freddo, Un freddo cane. Sì, E io ero ancora addormentato, Ero freddo. Bello pieno di paroxetina. E poi di colpo mi sono trovato lì che c'era una corrente d'aria della Madonna, no? Uno spiffero gelato. E lì dentro poi eravamo in 50, tutti al freddo, no? E ci guardavamo di brutto, E poi ovviamente è scoppiato un litigio. Ma come? Perché c'erano anche dei galli? Sì, però tutti senza becco, E tranne me. Beh, allora hai spadroneggiato, eh? Eh sì, quelli li ho sistemati tutti. Ah, bravo, bravo. Poi hanno aperto le porte, siamo entrati qua al caldo, E allora mi è venuto un sonno della Madonna. Ma come un sonno? Dovevi episcopale, Pollo? Beh, infatti ho episcopato, Però avevo sonno, Chissà che fatica. Uè, 300 galline mi hanno messo davanti, 300? Episcopale. È mica uno scherzo, E poi da mezzo addormentato non è mica facile, Però poi ti metti lì un po' comodo, no? E a tuo agio e cominci piano piano, no? Prima una fa un po' di fatica, poi due, e poi tre, poi cominci a prendere un po' di ritmo, no? Quattro, cinque, e poi non te ne accorgi neanche, poi arrivi a 300, E 300, no, mica poche, Che cosa succederà adesso? Anche Kappa e Drago dovranno affrontare una settimana episcopale? Forse loro se lo augurano, ma è difficile che vada a finire così. Per saperlo però, occorre aspettare fino a domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo inconcepibile allestimento de... La fabbrica di polli produce... Non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce.